Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Potevamo mancare, eh no, buon Natale a tutti voi, eccoci, siete tutti indaffarati intorno alla vostra tavola della festa, sarete in attesa dei vostri ospiti, amici, parenti, oppure siete voi in movimento, in viaggio, verso case che vi accoglieranno. Allora, noi abbiamo pensato di accompagnare gli ultimi preparativi del vostro viaggio con molti amici e con tante sorprese. Oggi è Natale, è il giorno per eccellenza della tradizione, delle buone tradizioni, ed una tradizione di Natale per me è avere qui Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, auguri, auguri a te, auguri a tutti gli ascoltatori. Alberto, oggi una puntata dove cucineremo un menù di Natale con molti amici. Ci saranno veramente tantissimi ospiti, arriveranno nella tua casa e poi nelle case di tutti gli ascoltatori. Ognuno ci metterà il suo personale ingrediente per fare di questo Natale. È una specie di portateco, sì, come si usava quando eravamo ragazzi. Intanto, la sfida di oggi è proprio di raccontare il menù di Natale dei nostri amici e trasferirlo nella casa di chi ci sta ascoltando. Intanto, a proposito di cucina, in linea abbiamo il nostro Stefano Polato, che è lo chef di Mangia con me. Ciao Stefano. Ciao, buongiorno a tutti. La sfida oggi con te, Stefano, è abbinare la ricetta giusta ad ogni proposta preparata insieme ad Alberto. E noi siamo pronti. Dai, allora, tanto per cominciare, lo dico a Stefano, ma lo dico a chi ci sta seguendo, non può esserci Natale senza una buona storia da raccontare e da condividere con le persone a cui vogliamo bene. E poi non può essere Natale senza una favola di Natale degna di questo nome. Allora, noi la favola l'abbiamo trovata. E non solo la favola, anche la sua autrice. Stella vagabonda piovuta da qualche galassia lontana, disse Platone. Io credevo di essere molto felice. Avevo tutto: una casa, il cibo, la sicurezza, l'affetto di un amico uomo. Eppure non ho mai vissuto prima di conoscere te. Sono nato il giorno in cui ti ho incontrato. Perciò, in un certo senso, tu sei la madre che mi ha messo al mondo e la dea che mi ha creato. E io ti onorerò ogni giorno che mi concederai, a modo mio, perché non sono un cane da caccia, né un cane da combattimento. Sono un cane da salotto, un filosofo e un poeta. Sono ricco solo di parole e di pensieri, ma di questi e quelle ne conosco tanti da rendere la vita varia, avventurosa e piena. Io scriverò per te le canzoni più belle. Ti farò dimenticare il dolore che hai provato e ti farò conoscere la felicità. La felicità è oggi, ma anche domani e sempre. Care amiche, cari amici, questo è un breve ma assai intenso estratto dal nuovo libro di Melania Mazzucco, Il Bassotto e la Regina, edito da Einaudi. Un libro che dovete assolutamente leggere in queste vacanze perché, come dice spesso Alberto Pellai, fa alzare lo sguardo. Ma intanto buongiorno Melania, ciao, benvenuta e buon Natale! Ciao, buongiorno a tutti e auguri a tutti. Melania, una favola di Natale di stampo animalista dove i tuoi protagonisti animali sono splendide, direi azzeccatissime metafore del mondo di noi umani. Sì, quello che parlava prima, che avete sentito, è una grande dichiarazione d'amore nel bassotto Platone alla levriera afghana che conosce appunto durante le vacanze di Natale. È un racconto di Natale anche perché il suo tempo è effettivamente quel tempo un po' strano per i bambini e per gli animali, quando i grandi non lavorano, tutto si ferma e non c'è più tanto attenzione per loro. E Platone resta solo, questo però in realtà gli aprirà tutto un mondo. È vero, sono dei personaggi, sì, animali, che però somigliano a noi. Una splendida dichiarazione d'amore che forse un umano non sarebbe in grado di fare. Ma Platone è un poeta, infatti. Senti Melania, tu hai scritto una favola, per te è una novità scrivere per i bambini, sia chiaro, e la tua storia è adattissima anche a noi adulti, per te che sfide particolari ha comportato? Ma io volevo scrivere una storia che potessero leggere tutti, quindi anche i bambini. Questo perché in effetti me l'hanno chiesto molti bambini che mi girano intorno di questi tempi e mi dicevano sempre, guardando i miei libri, ma quando scrivi una storia che anch'io posso leggere, non necessariamente scritta solo per loro, no? Però qualcosa che potessero leggere tutti. E siccome io in effetti di storie gliene raccontavo, sì, per divertirci, per passare il tempo, per addormentarsi e così via, ho pensato di scriverla, con lo stesso tono con cui la racconto, e quindi con una voce che canta una canzone, un'antica ballata, un'antica favola. Alberto, il libro di Melania è un consiglio di lettura che noi vogliamo dare, l'abbiamo detto in apertura, a tutti i nostri ascoltatori. Ma tu, che sei molto attenta al mondo dei più piccoli, perché un genitore dovrebbe mettere in mano questo libro al proprio bambino a leggere, come abbiamo sentito la storia di Melania? Intanto perché una... Melania ti piace molto. Molto, io la adoro proprio come scrittrice d'adulto, trovo che... È molto di parte, Alberto, perché Melania lo sai che è un tuo appassionato, ma di più, ma voglio dire di più, quindi... Allora, io tra l'altro l'ho già detto a Melania fuori onda, lo leggerò ai miei figli in queste vacanze, è una storia straordinaria. Ha dentro tutti i temi, il bello e il brutto, proprio il tema della bellezza, il successo, la fatica di conquistare degli obiettivi, lo stare in relazioni, lo stare in un mondo dove apparentemente sei invisibile, la sofferenza d'amore di questo bassotto che è di un'intensità straordinaria. E devo proprio dire una cosa, che i bambini le storie d'amore piacciono tantissimo, ma noi grandi non siamo mai capaci di raccontargliela. Questa è una straordinaria storia d'amore. Melania, questo è veramente un complimento di Natale, che è assolutamente meritato. Natale, visto che la mattina qui non arrivano regali per i grandi, me lo prendo come e te lo meriti. Regalo sotto l'albero. È bellissima questa lettura della storia, perché sai, è quello che... Insomma, quando si scrive una storia è proprio quello che si vuole dire, però... È bello che arrivi tutto questo. Bene, senti Melania, noi in questa puntata abbiniamo ad ogni nostro ospite un piatto e lo facciamo usando due parole chiave. Alberto le ha scelte e Stefano Polato è in linea con noi perché lui le tradurrà nella pratica in una ricetta, che è il nostro regalo di Natale per Melania. Sperando, io sono certa che Stefano ti preparerà una ricetta assolutamente in stile con il tuo profilo, e poi noi condivideremo naturalmente la ricetta con tutti gli ingredienti, le dosi, sulla nostra pagina di Essere Benessere. Alberto. Ma io ho scelto la parola eleganza perché la levriera della storia di Melania è veramente un cane elegantissimo e di una bellezza straordinaria, e lo si scopre poi leggendo la trama del libro. Ma e l'altra invece, che il suo bassotto, che la ama follemente, è veramente un essere essenziale che sa tutto della vita, per cui eleganza ed essenzialità. Stefano. Sì, due parole fenomenali. Allora, eleganza mi fanno ricordare subito la bellezza del riso venere sopra un bel piatto bianco, quindi uno sformatino di riso venere, sì, profumato al prosecco, che abbiamo scoperto giovedì scorso che i vini bianchi con le bollicine è stato ribaltato un tabù che fino ad oggi avevamo in testa, quindi fa molto bene anche il vino bianco, e con le mazzancolle, quindi essenzialità, prodotti di stagione. Molto semplice, sì. Bolliamo il riso venere, lo portiamo a cottura, lo teniamo bene al dente. Una volta cotto, lo mettiamo in degli sformatini e lo passiamo in forno per 8 minuti. E nel frattempo facciamo una salsa con la salsa di soia, sì, quindi panna vegetale alla soia, mazzancolle e prosecco. Andiamo a guarnire il nostro sformatino su un bel piatto bianco, come dicevo prima, e sopra mettiamo la mazzancolla e attorno la salsina al prosecco. Melania, te la senti? Ho già fame. Hai già fame, ti senti rappresentata? Io sono una buona porchetta, come si dice, mi piace anche tanto cucinare, quindi adesso me la mangio questa ricetta e poi la farò. Ricordiamo, Stefano, che il riso venere è un riso nero che si sposa, sì, molto bene col pesce, vero? Assolutamente sì, è importantissimo, come sottolineiamo sempre col dottor Ongaro, è soprattutto un riso integrale. Quindi. Un riso integrale. Allora, la ricetta naturalmente di questo piatto così elegante e che sposa l'eleganza e l'essenzialità la potete trovare sulla pagina di Essere Benessere. È una ricetta che Stefano Polato regala a Melania Mazzucco. Melania, noi ti salutiamo. Vi ringrazio. ringrazio molto, ringrazio della ricetta di cui farò buon tesoro, anche perché qui a Roma le mazzancolle le sappiamo fare abbastanza bene, quindi l'idea di assaggiarla con il riso venere mi piace tantissimo. Grazie a Melania Mazzucco. Grazie a tutti, auguri. Stefano, tu fermati perché sta bussando un nuovo amico da far sedere alla nostra tavola, anzi un'amica. Ve la introduciamo con il suono del suo ultimo successo. Natale si abbandona sulla valle, tu stringimi le mani, io accenderò le stelle. Dai, cantiamo tutti sottovoce, vedremo luccicare degli angeli la voce. Sottovoce è l'inedito contenuto nel nuovo CD di Rettore. Ciao Rettore, buon Natale. Non la facciamo sentire tutta, non vogliamo dire buon Natale completamente. La faremo sentire anche nel corso della nostra chiacchierata. Tu siediti alla nostra tavola e poi riprenderemo naturalmente il tuo buon Natale. Grazie. Ciao. Auguri, e c'è anche Alberto che ti fa gli auguri. Grazie Alberto, ciao. Io sono stata vostra ospite anche l'anno scorso. Certo, noi ormai ci consideriamo tuoi amici, anche perché tu sei l'ospite. Anch'io, perché poi siete una radio che io ascolto, per Brava. Senti, tu sei l'ospite perfetta a questo punto della trasmissione, vero Alberto? Sì, ha scritto una canzone di Natale, Natale sottovoce, magnifica, tra le altre cose l'ha abbinata ad un video che io straordinario, perché c'è tutto lo spirito del Natale. Come mai hai voluto cantare Natale, Rettore? Ma guarda, l'ho voluto fare proprio quest'anno perché era importante che ci fosse una canzone di Natale che non fosse stucchevole, che avesse le caratteristiche del Natale che il Natale deve avere. Quali sono per te? Prima di tutto il consumismo quest'anno non ci sarà, non ci sarà, non credo che ci sia, ed è per questo che... Perché la crisi ci fa fare degli acquisti più oculati, essenziali direi, no? Questo è un vantaggio della crisi? Sì, ma forse invece questa crisi sarà un'occasione, se vogliamo giocarcela così, per ritrovarci finalmente insieme e ritrovare il vero spirito del Natale, che da anni non c'era più. C'era una corsa spasmodica al regalo, invece adesso dovremo proprio sentire il nostro umore sfiorarci la pelle e tenerci per mano e non lasciare che nessuno ci lasci. Sì, è vero, un Natale più autentico, eh? Alberto, come c'era una volta, come quello che siamo abituati a ricordare, di Natale quando eravamo piccoli, dove i regali arrivavano ed erano regali più essenziali, ma ci facevano molto piacere. E devo dire che a proposito di ricordi e di regali, che io ho ascoltato tutto il CD direttore, The Best of the Beast, ed è un magnifico album di fotografie della nostra vita. Ogni canzone che entrava dentro allo stereo immediatamente mi apriva un'immagine, e ho un ricordo proprio di Natale. Il mio primo LP che ho chiesto in dono si intitolava Brivido Divino, era un vinile tutto rosso ed era l'LP di grandissimo successo, dove Rettore cantava anche Splendido Splendente. Sì, era la colonna portante di Brivido Divino, Splendido Splendente. Ma lo potrete trovare rifatto, ricantato, riarrangiato, sempre senza snaturare quello che è l'originale, perché l'originale poi nasce sempre, ha una freschezza diversa. E io ho cercato invece di fare the best, questo best, ho cercato di fare un concept best. Non ho cercato a casaccio, messo a casaccio canzoni che non c'entravano. Sono tutte canzoni che si accorpano fra di loro, che hanno un senso l'una con l'altra. Forse se fosse stato per me, per esempio Cobra non l'avrei messo, però a grande richiesta abbiamo messo Cobra, cercando di renderlo più rock, più attuale con i tempi, meno giungla e molto più metallo. Quindi tutto è ingredienti di questa ricetta di successo. A proposito di ingredienti, Rettore, quali sono gli ingredienti del tuo Natale? Gli ingredienti del mio Natale è stare a casa. Io sono di Castelfranco Veneto e ho vissuto per molti anni contemporaneamente sia a Milano che a Roma, per molti anni, 29 anni, e da 7 anni esattamente da quando mi sono sposata io vivo nella casa che fu dei miei nonni, poi dei genitori, che è una mega casona veneta, e sono tornata a casa proprio per il desiderio di passare Natale sempre a casa, I'll be home for Christmas. E non solo nei miei sogni, anche nella realtà. Un Natale casalingo in terra veneta. E dal Veneto, Rettore, arriva anche il nostro chef Stefano Polato, che è in linea con noi, a cui abbiamo dato l'incarico di preparare, di abbinare ad ogni nostro ospite del Natale di Essere Benessere una ricetta. Questa ricetta lui la costruisce in base a due parole chiave che naturalmente ha elaborato e pensato Alberto. Per dirvi quali sono le due parole che abbiamo scelto per Rettore, vi facciamo ascoltare come si conclude il suo inno di Natale, perché c'è una sorpresa. Riflessi allo specchio, vediamo che c'è un bimbo dietro ad ogni vecchio, e intanto cerca la sua stella e vive, e grazie a quella niente lo uccide e sopravvive. Tanto tutto cambia, ma non mi spaventa, perché la vita è cambiamento e se non cambi ti rallenta. Io che mi sento una fenice, risorgerò ogni giorno dalla neve che raffredda ogni cicatrice. Alberto, e qua si svelano le parole, perché ascoltando lei ha proprio incastrato i due ingredienti che sono alla base della sua personalità: tradizione, così comincia il suo inno di Natale, poi straordinaria innovazione con questo finale rap. E sono le due parole che consegniamo al cuoco per lei. Stefano. Sì, allora ho pensato a due soluzioni. Una molto tradizionale, zuppa di pesce. L'innovazione a questo punto sta nel fatto di saper scegliere i prodotti di stagione. Anche per quanto riguarda il pesce esistono le stagionalità. Soprattutto a dicembre possiamo avere le pannocchie di mare e le triglie freschissime. Altro spunto per l'innovazione a questo piatto, aggiungiamo qualche spezia. Aiutiamoci con dei semi di sesamo, ad esempio, per sostituire il sale, molto saporiti e molto ricchi di ferro. E ancora possiamo utilizzare delle alghe, molto poco usate nella nostra cucina, però molto benefiche per il nostro organismo, ad esempio l'alga nori, oppure dello zafferano o della curcuma, che contiene la curcumina, importantissima per il nostro organismo. Un'altra soluzione potrebbe essere, credo che Donatella Rettore possa essere d'accordo, visto che è veneta, una sbrisolona rivisitata. Una sbrisolona è un tipico dolce veneto, ma anche mantovano, cambia nome a seconda della zona in cui viene preparato: sbrisolona, fregolotta o sbrisolada. E andiamo a sostituire il burro, l'innovazione sta proprio qua, con l'olio extravergine di oliva e l'olio di semi di mais. Quindi no burro ma olio. Per Rettore. Pesce o dolce, Rettore? Molto meglio l'olio extravergine d'oliva. Però volevo dirgli che non posso mangiare la sbrisolona, se si può, perché sono celiaca, avrei bisogno di una sbrisolona al mais. Allora, gli ingredienti per questa sbrisolona che troverete anche sul blog sono farina di riso integrale, farina di mais, miglio bollito. Quindi, fantastico, vedi che Stefano Polato è avanti. Allora, Veneto, vero che te l'ho servita su un piatto d'argento e poi mi vedi che a Natale sono ancora più buona. Un abbraccio al rettore. Abbracciamo anche Nottini Lemon, che è il rapper che voi sentite su Natale sottovoce e certo, che vedete nel video. Un doppio abbraccio. Grazie rettore, Stefano Polato resta con noi, facciamo una pausa e poi ritorniamo subito dopo insieme, altri ospiti, altre parole, altre ricette ci attendono, festeggiamo insieme. Essere e benessere. E siamo tornati insieme in questo giorno speciale, ancora buon Natale per chi si fosse messo in collegamento con noi ora. Quando le mie bambine erano piccole, cioè fino a qualche tempo fa, io ho cercato di mantenere questa tradizione per tutto il periodo dell'avvento fino al giorno del Natale, le svegliavo cantando delle canzoni di Natale. Poi da qualche anno hanno detto: senti mamma, non se ne può più, semmai veniamo noi a cantarle a te, e così non hanno più fatto. E devo dire che in casa mia in realtà in queste settimane la musica di Natale è proprio, io sono un collezionista di musica di Natale e quindi ne abbiamo molta molta di sottofondo. Io credo tra l'altro che la musica serve proprio a connotare l'atmosfera di un momento specifico, e allora, la musica di Natale è veramente piena di grandissime emozioni. E allora concentrati perché stai bello preparato, perché noi qua abbiamo un ospite che ti farà sicuramente emozionare, Alberto, che tu ami in modo particolare. Abbiamo il linea con noi, ha bussato alla nostra porta e si sta accomodando Stefano Dorazio. Ciao Stefano! Buongiorno, buon Natale a tutti! Alberto? Beh, Stefano Dorazio è un ex Pooh, ma adesso è diventato Stefano Dorazio, non più ex Pooh, e ne fa di ogni colore. Sì, bisogna legarlo. Stefano, ma com'è che ti è venuto sto trip? Non ti si ferma più, perché a teatro c'è un tuo musical che sta riscuotendo grande successo, Viva Zorro, il musical. In libreria c'è la tua biografia molto particolare, che si intitola Confesso che ho stonato, una vita da Pooh, Kowalski editore. Ma insomma, dove trovi il tempo e soprattutto tutte le energie? Oggi è Natale, puoi dire la verità. Ma guarda, io la verità ho cercato di dirla anche nel libro, no? Dai 7 anni fino ai nostri giorni, attraversando tutti i capitomboli che ho fatto, quindi praticamente diciamo che la mia è una biografia nella quale cerco i lati meno conclamati e soprattutto lontani dagli applausi, diciamo. E l'energia mi è arrivata tutta insieme quando un certo giorno mi sono reso conto che per tutta la vita avevo fatto il Pooh e che forse c'era qualche altra cosa ancora da vedere, da scoprire, da entusiasmare, e così mi sono trovato a aprire dei cassetti, a tirar fuori delle favolette che forse avevo scritto in qualche momento di relax del mio lungo percorso insieme ai miei amici per sempre, e così sono tirato fuori un Aladdin, che è stato un musical che mi hanno musicato Dodi, Red e Robby. Poi sono arrivati gli ABBA che mi hanno fatto fare la versione italiana di Mamma Mia, e lì mi sono montato la testa, ho detto ma come no, allora facciamo il musicalaro, e quindi ho tirato fuori anche questo Viva Zorro che con la musica di Facchinetti sta girando appunto l'Italia. Nel frattempo ho cercato nelle mie agende, siccome io ho avuto questa fortuna da una parte e abitudine semplicemente dall'altra, quella di scrivere ogni giorno sull'agenda quella che avrei dovuto fare il giorno successivo, risfogliando questa agenda ho rinciampato in nomi, città, avvenimenti e quant'altro, ho scelto i più imbarazzanti, quelli che di solito uno nella vita cerca di tenere nascosti, sì, che non siano successi, e ne ho scritto un libro appunto, Confesso che ho stonato, che sono 400 pagine perché me l'hanno fatta tagliare, perché in realtà erano 800, perché di cose appunto di capitomboli, ruzzoloni e quant'altro. Dai, ne ho fatti molto di più. Raccontacene uno, Stefano. Ma guarda, io parto da quando appunto adolescente reclutavo davanti ai giardini del liceo dei pensionati per fargli fare la parte di mio padre quando dovevo ritornare a scuola accompagnato da una sospensione, attraversando fino alle bugie raccontate per comprarmi la prima batteria, poi il primo complesso, le prime avventure d'amore, i primi baci, tutte le prime volte in qualche maniera, però cercando proprio di scegliere tra queste prime volte quelle che sono andate praticamente male, no? Che ne so, ti racconto questo appunto del liceo, che una volta appunto, siccome c'era questa abitudine che alle 10:30 arrivava sempre un bidello a chiedere ai professori del mio liceo se dal bar volessero qualcosa per il break di ricreazione, no? Io quel giorno ero interrogato alla cattedra della professoressa d'inglese, che era particolarmente arrabbiata con me, perché diceva che appunto io in conversation, cioè a parlarlo, perché avevo imparato un po' di inglese dalle canzoni dei Beatles e degli altri gruppi inglesi e americani, me la cavavo, però come entravamo un pochino nel merito di qualcosa veramente da studiare, non ne sapevo assolutamente niente. Per cui quel giorno c'era When was born William Shakespeare, quando era nato sto William Shakespeare, che io non sapevo neanche chi fosse, pensavo fosse un terzino dell'Atalanta, no? Per cui quando appunto mi trovai lì a rispondere a queste domande, in questa maniera entrò il bidello e chiese appunto alla professoressa se doveva portare qualcosa, e lei con un bel pugno sulla cattedra urlò: sì, porti una bala di fieno che qui c'è un asino. Ora sulla cattedra c'eravamo soltanto io e lei, mi venne spontaneo di dire: e per me un caffè. A quel punto la cosa degenerò immediatamente, presi di sospensione, 3 giorni senza tornare, e dovevo tornare accompagnato. Per cui arrivai al giardino là davanti, dove c'erano tanti pensionati, feci un casting e selezionai un pensionato molto carino, dignitoso, con giacca, cravatta, giornale sotto il braccio, scarpe lucide, e gli chiesi appunto se era disposto ad accompagnarmi il giorno dopo, in quanto gli raccontai che mio padre aveva avuto una complicazione cardiaca per cui non potevo dargli i dispiaceri. Questo la chiusi a 5.000 lire, avendomene chiesti 10, e arrivai la mattina a farmi accompagnare appunto in classe da questo signore. Questo arrivò su, era entrato nella parte proprio col metodo Stanislavski, entrò dentro tutto convinto, la preside e la professoressa d'inglese dice: questo ragazzo nelle lezioni ha scambiato la scuola per un cabaret, fa qui, fa, insomma, gliene diceva di tutte. Questo era sempre più nella parte, finché a un certo punto mi detto un ceffone che mi fece girare su me stesso, per cui io dissi: sì, però se mi devo far menare mi portavo mio padre, quello vero. E a questo punto di nuovo di tutto di più, questo venne denunciato per falso in atto pubblico, io venni così risospeso, arrivò mio padre, quello vero, e quindi praticamente, siccome era molto di moda a quel tempo, mio padre si levava la cintura dei pantaloni quando poi eravamo soli soletti a casa e mi inseguiva intorno al tavolo grande della sala da pranzo. Questo è uno dei forse 400 episodi che racconto all'interno di questa storia. Stefano, guarda, c'era Alberto che aveva le lacrime, perché lui che fa spesso i circoli del papà e quindi aiuti papà a diventare sempre più, no, capaci nella educazione, nello svolgere questo ruolo così importante. Io non so che cosa avresti detto al papà di Stefano. Ma al di là di quello che avrei detto al papà di Stefano, trovo che tra fieno e asino il nostro Stefano D'Orazio ci ha raccontato una delle stonature più natalizie di tutta la sua biografia, e trovo anche bellissimo che lui, che è un personaggio così popolare, così amato, così cristallizzato un po' anche dietro il profilo dei Pooh, abbia deciso di raccontare in un libro proprio la storia della persona, quella che si è nascosta dietro il personaggio, quello che in generale nessuno conosce. E Alberto, per Stefano che parole hai scelto? Allora, noi abbiamo proprio, e credo che il racconto di Stefano ci ha molto confermato sul fatto che abbiamo scelto proprio due parole che per lui lo vestono come a pennello, che sono passione e sincerità. Ti piacciono? Ti ritrovi, Stefano? Assolutamente sì, ecco, anche perché io ho cercato proprio tutta la vita di cercare le strade in salita e di vedere gli orizzonti per arrivare appunto ad avere degli stimoli. Il giorno che questa cosa mi è cominciata a mancare all'interno del mio viaggio con i Pooh, ho detto appunto che era forse arrivato il momento di scendere, nonostante tutto funzionasse a meraviglia, nonostante i miei tre colleghi fossero dei grandi amici. Quindi la passione di andare a cercare nuove emozioni e il coraggio, forse anche un pelino c'è stato anche quello, l'incoscienza chiamiamola, di aver detto: ok, scendo qui e vediamo cos'altro c'è. Tutto sommato forse sì, fa parte di questi due vocaboli. Stefano, invece, il nostro Stefano Polato, come ha tradotto queste due parole? Credo di averci azzeccato anche questa volta, nel senso che la piacevolezza con la quale Stefano racconta di se stesso mi ha fatto pensare ad un momento di incontro. Spesso durante le feste arrivano parenti, amici, non sappiamo mai cosa preparare. E ho pensato ad una pericena, l'abbiamo già inserita nel blog di Mangia Con Me, ha avuto un successone, e è qualche idea per avere passione per noi stessi, in primis, nel senso scegliere prodotti sani e genuini, in secondo luogo passione per la cucina. Quindi prepariamo, compriamo tutti gli ingredienti utili, quando arrivano gli ospiti li facciamo assieme a loro. Indicazione, sì. Tartufini al tonno, preparati con del tonno in scatola, patate sì. schiacciate, ricotta di capra, e passati successivamente in semi di sesamo, semi di papavero. Questi sono dolce. Magnifici e fanno sì. fare un grande figurone. Esatto, poi mini muffin salati con ceci e rosmarino, rapidissimi da fare, farina integrale di ceci, farina integrale di grano tenero, quindi sanissimi. Mm-hmm. Prugne alle mandorle, velocissimi, leviamo il nocciolo dalle prugne secche, inseriamo una mandorla, uno stuzzichino molto veloce e simpatico, bicchierini con crema di lenticchie e gamberi e curry, il curry è un ingrediente spettacolare per tutto ciò che riguarda il nostro organismo, e ancora delle mini pere, possiamo fare dei bocconcini di pera oppure scegliere delle pere volpine che sono piccoline e simpaticissime, aromatizzate con vaniglia e arancia. Ecco che abbiamo fatto una pericena che ci può portare fino a tarda sera. Vedi Stefano che tu hai proprio ispirato al nostro Stefano Polato non una ricetta ma tante ricettine, una pericena, quindi qualche cosa ancora di più armonico, complesso, proprio da vivere con gli amici. Ma bellissima questa cosa della pericena, veramente non ci avevo pensato, non so dove andare a prendere tutti gli ingredientini che mi stava raccontando, però devo dire che sicuramente mi ha messo appetito. Allora Stefano, vai anche tu a leggere le ricette che Stefano Polato ha preparato con te, intanto buon Natale. Grazie. Grazie a voi, tantissimi auguri. Grazie, buon Natale. E Stefano, le ricette che tu suggerisci sul nostro sito sono sempre, sposano la filosofia di Mangia con me, quindi verdure, frutta e verdura di stagione a chilometro zero, cereali integrali, ma facciamo anche delle incursioni nelle altre cucine. Sì, facciamo delle incursioni nelle altre cucine anche perché la scienza medica ha scoperto che soprattutto la medicina cinese orientale ha portato un'innovazione molto importante in cucina. Prima parlavamo delle alghe, possiamo introdurre anche il wasabi come spezia molto importante. Ancora, bella piccantina, c'è anche un film, vero? Sì, wasabi. E lo zenzero, quindi prima parlavo non solo di passione ma anche innovazione, quindi portiamo in tavola prodotti nuovi soprattutto sani. Allora, adesso noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Stefano, rimani con noi, Alberto è qua chiuso in studio che festeggia con me il Natale, una nuova ospite è pronta, si sta avvicinando, l'andiamo a conoscere subito dopo le informazioni sul traffico e sarà una vera sorpresa. Essere e benessere. È giovane, bella, brava, molto amata e questo è il suo nuovo singolo, si intitola Tutto quello che ho, come state sentendo, e in linea con noi chiudiamo la nostra chiacchierata natalizia, Francesca Michielin. Ciao Francesca! Ciao a tutti, grazie mille! Noi ti abbiamo proprio tenuta come ultima ospite nella puntata di oggi di Natale perché volevamo proprio portare la tua bellezza semplice, oltre che la tua straordinaria voce, come ultimo stimolo per i nostri ascoltatori che stanno trascorrendo con noi un pezzettino del loro Natale. Magari sono ai fornelli o si stanno muovendo in macchina per raggiungere parenti e amici. Sì, vi ringrazio. Francesca, tutto è cambiato. Sì, abbastanza, è proprio stata una svolta. Il successo, il CD, le partecipazioni ai programmi in TV, ma sì. Sei cambiato un po' anche tu? Perché quando questa domanda vi viene fatta questa domanda, tutti voi dite no, non sono cambiata, sono restata la ragazza di sempre, è vero o non è vero? Ricordati che è Natale, eh? Beh, sì, allora io devo dire che secondo me bisogna accettare che la propria vita è cambiata, poi ogni persona è in continua evoluzione, quindi dire che si è rimasti gli stessi di sempre è abbastanza utopico, cioè perché ogni giorno siamo a contatto con delle nuove realtà, perciò è giusto, certo. Non è che si cambia, ci si trasforma, ma brava, non è una cosa per forza negativa, spesso è proprio una presa, maggiore consapevolezza, certo. È presa di è una maturità, è una, cioè, secondo me è qualcosa di positivo e devo dire che mi sento cresciuta. Natale, Francesca, è il tempo in cui tutti mandano la letterina a Babbo Natale. Tu, siccome sei proprio un idolo per i ragazzi della tua età, ricevi, sono sicuro, centinaia e centinaia di lettere dai tuoi fans. Che cosa ti scrivono? Che cosa i ragazzi della tua età vogliono condividere con te? Che prendono un po' a modello? Beh, sì, secondo me il fatto di voler prendere a modello è una cosa molto bella, da parte mia molto rischiosa, perché devo essere veramente un buon esempio, ma è una cosa che mi piace condividere la mia esperienza, i miei ideali, i miei valori, oltre che la mia musica con i miei fan che amiamo, con le persone che mi seguono. Beh, queste persone, questi fan cioè, ovviamente vogliono magari instaurare rapporti d'amicizia, vogliono un autografo, una foto, vogliono che, cioè, diciamo, le cose normali. Cioè, cercano un po' l'amicizia, perché è come si chiede sempre ad un personaggio famoso, l'autografo, oppure magari ricette per arrivare al successo. Esatto, sì, questa che, cosa è vera. Purtroppo non ce ne sono, perché se ci fossero le proveremmo tutti, sì. No? Sì, sì, molto spesso mi hanno chiesto, appunto, voglio partecipare ai provini di X Factor, dammi dei consigli, oppure puoi mandare le mie demo alla tua casa discografica, cioè, molte sì, persone che fanno così, beh, ma a me... È normale, no? Sì, ma anch'io, cioè, magari, c'è proprio, cioè, è una cosa... bella, comunque io sono felice di aiutare queste persone se posso, dando dei consigli. Tu, Francesca, dillo ai nostri ascoltatori, quanti anni hai? 17, e fra 2 mesi esatti, dato che è Natale, ne compio 18, perché li compio il 25 febbraio. Allora, è il tuo mese versario, come direbbero tutti, ma rendetevi conto, a 17 anni questa ragazza ha già vinto X Factor, ha fatto uscire un CD che ha avuto la collaborazione artistica di Elisa, è entrata in classifica, tutti ne parlano, un fans club agguerritissimo. È vero. Tantissima roba, come dicono i ragazzi. Bravo. Da tenere sulle spalle. Sì, non è che dicono proprio tantissima roba, dicono in un altro modo, vero Francesca? Però Alberto, sai com'è, come ai suoi anni. Come sarà diverso il tuo Natale di quest'anno rispetto a quello dello scorso anno? Che cosa è cambiato? Guarda, sarà senz'altro meraviglioso dal momento che l'anno scorso a quest'ora precisa ero reclusa nel loft a guardarmi i film di Natale, a scartare i regali che mi avevano portato i miei parenti. Purtroppo l'anno scorso X Factor è terminato il 5 gennaio, quindi è stato un Natale un po' particolare, e quindi quest'anno lo vivrò il doppio, con più felicità, con più voglia di stare in famiglia, potrò godermi tutti gli attimi natalizi. Quindi insomma ti abbiamo già rubato un po' di Natale da condividere con i tuoi, ma l'abbiamo fatto con piacere. Adesso sono a casina, perciò sono contenta. Senti Francesca, anche per te due parole chiave, perché in linea con noi abbiamo Stefano Polato che... ideerà per te una ricetta che ti rappresenta un po'. Alberto, beh, le due parole? Per Francesca le due parole che abbiamo scelto sono freschezza e semplicità. Stefano? Aggiungo genuinità. Genuinità. Ascoltando Francesca, mi è proprio venuto in mente questo termine. E per lei ho pensato a un paio di escamotage, chiamiamoli così. Aspetta Stefano, prima di svelare un po' la tua ricetta. Francesca, tu ogni tanto cucini? Sì, mi piace cucinare, specialmente i dolci, perché... Bene, e come te la cavi? Ti piace e realizzi anche buone cose, oppure... Beh, diciamo che io sono l'opposto di mia mamma. Mia mamma è proprio la classica donna di casa, quella perfetta che sa fare tutto. Invece sono un po' più artista, un po' più disordinata, però lei mi ha un po' provato a insegnare l'arte dei biscotti natalizi, quelli col burro. Infatti sì, mi sono cimentata anche questo Natale nel realizzarli. Sì, in quello sono brava, sì. Allora, quindi Stefano, stai parlando con una professionista. Sono proprio fortunato oggi perché ho pensato a due dolci. Mamma mia, come hai visto lungo, che fortuna! Sì, devo dire di sì. Allora, freschezza, utilizziamo la frutta. Semplicità, chi non ha in casa al periodo di Natale un panettone o un pandoro? Quindi andiamo a riutilizzare, a riproporre questi due prodotti. L'ho chiamato così perché secondo me arriva ad ottenere una preziosità inaudita: lingotto di ananas e panettone. Mamma mia, lingotto di ananas e panettone, per Francesca. Sì, fra gli ingredienti, oltre al panettone e all'ananas, abbiamo lo zenzero, il curry e i frutti di bosco. Quindi i polifenoli del curry fungono da potenti antiossidanti e le fibre dell'ananas rallentano, importantissimo, l'assorbimento degli zuccheri e dei grassi del panettone. Quindi andiamo semplicemente a tostare con olio extravergine di oliva e un po' di curry la fetta di panettone, sopra adagiamo una fetta di ananas con grattugiato poco zenzero, andiamo a chiudere a mo' di sandwich il nostro lingotto e decoriamo sopra con dei frutti di bosco. Un'altra soluzione potrebbe essere, velocissima e allo stesso tempo molto rapida, un'insalatina di agrumi e pandoro, semplicemente con prodotti di stagione, arance, mandarini, possiamo inserire anche del finocchio, delle mandorle e lamelle. Insaporiamo con dell'olio extravergine di oliva e del pepe rosa. E in questa ricetta la vitamina C contenuta negli agrumi facilita l'assorbimento della vitamina E delle mandorle, che spesso sono contenute... Perché sono delle vitamine liposolubili. Liposolubili, esattamente. E in più le fibre del finocchio anche qui ci aiutano a rallentare l'assorbimento degli zuccheri del pandoro. Quindi vedi, Francesca, che il nostro Stefano ha pensato per te delle ricette che sono tradizionali, perché il panettone e il pandoro li utilizziamo sicuramente, li abbiamo tutti e li utilizziamo con grande piacere, soprattutto in queste vacanze, anche se il nostro gastronauta suggerisce il panettone un po' per tutto l'anno, chiudo la parentesi, ma per te che sei una vera artista creativa, Stefano ha aggiunto degli abbinamenti molto sfiziosi, come il curry, lo zenzero. Sono abbastanza commossa per questa cosa, perché è bellissima la ricetta. No, e poi tra l'altro l'ananas fa benissimo alla voce, quindi è una cosa fantastica. Mi è piaciuta proprio tanto, grazie. Ti è piaciuta, guarda, Stefano, vedi? Sì, bisognava inserire anche dolcezza fra le parole chiave. Vabbè, adesso però qua poi vi innamoriamo, perché prima genuinità, adesso dolcezza, ma noi... Cambieremo i numeri di telefono. Va bene, però io non voglio sapere poi i rispettivi morosi che non dicano che è colpa mia, Invece ci regaliamo ancora un'emozione da un successone di Francesca. Andiamo e poi facciamo ancora due chiacchiere veloci per salutarci bene. Negli occhi, perché non c'è alcun peso da nascondere, e quel vestito da stringere un po' buone intenzioni che Sentite la voce di questo, che sembra un po' un pulcino, perché che ci ha così commosso con la sua spontaneità, la sua freschezza, la sua naturalezza. Francesca, complimentoni. Grazie, grazie mille. Per te il lingotto di ananas di un tuo ormai, cioè, si è scoperto, si è proprio dichiarato di un tuo appassionato ammiratore, Stefano Polato. Ecco, la ringrazio molto. Stefano, grazie, ma io direi, proprio per salutarci, ci può essere Natale senza la poesia di Natale? Bene, io questa l'ho commissionata da Alberto Pellai, che l'ha scritta proprio per noi. La dedichiamo a voi, l'ascoltiamo e con queste parole tutti insieme vi auguriamo buon Natale. Buon Natale da Nicoletta Carbone, io vi aspetto come sempre domani. E buon Natale da Alberto Pellai. Se ciò che chiamiamo festa è solo una circostanza, se buio c'è dentro al cuore e di luci piene è la stanza, forse convien fermarsi e pensarci su un bel po'. Che a una festa di questo tipo è meglio dire di no. Se per tutto l'anno siamo travolti da stress e fretta, se senti che questa vita ti affanna e un po' ti va stretta, vuol dire che è giunto il tempo di muoversi un po' più lenti, di alzare al cielo lo sguardo e vivere più contenti. Vorrei per un giorno almeno che il tempo tornasse indietro. Vorrei essere in questa festa come il mio bambino Pietro, che prima di addormentarsi mi dice: ti voglio bene. Domani, caro papino, saremo di nuovo insieme.